come luce da donna, da fattilino, ne possiamo fare senza distorcerla, capito? Stanotte qual era quel microfono? L'MC10, se non mi ricordo male, che faceva la voce della donna, era un po' calda. Non lo ricordo. Comunque sei uno che ha sentito, ma non difficilmente scende in AM, l'ho sentito in manga. Credo che c'è il paese, guarda, mi sembra che sia uno che c'è con nome attivo Archimede, non so se lo conosci. So che lui lavora su queste, tu che lo fa per mestiere, lavora su questi apparati hi-fi, e c'ha un microfono, si è creato, dice, un microfono che cambia la voce, ecco, però se ti cambiano da un momento all'altro, non sono quello che c'è Archimede tutti. Guarda, al momento mi è preso in fragante, non ho un vuoto di memoria, però sì, ho sentito, ma non ho... Io l'ho sentito, non lo ricordo. Sembra che c'è un paese, qualche paese qua vicino. Era quello che stavo parlando e vabbè, faccio sentire, proprio cambiava la tonalità, la voce, perché lui mi ha spiegato che lavora su questo campo dell'hi-fi, non so cosa fa, componentistica, e che l'ha creato lui un microfono così. L'ha creato a lui. Ok, riprende Mario. Non sarà Archimede di Ruschi di no. Ma forse non lo ricordo, non me lo ricordo. Ci stavamo facendo anche la chiacchierata, eravamo in banda. E proprio mi ha fatto notare queste cose. Però grazie, per carità, non escludo. C'ha una voce particolare, tutta squillante lui. Però che lui riesce a aggiustare con questo microfono. Ah, K. E se non sbaglio dovrebbe essere quella Archimede di Ruschi. Davvero, che ogni tanto sta trafugando e quelle cose lì, mamma là, tanto stai chiudendo, comunque restia tu, te la riascoltiamo alle prossime, e niente, poi non lo so, quel motore vedi tu, se lo vuoi dare lo dai, al limite glielo dici di buscartene uno di 75. Sì, domani studio nel venire per portarci un'altra roba, glielo dico, gliene sono quei pizzi che mi ha chiesto, ma e il resto glielo carichiamo così, glielo dico che poi ci faccia anche tu ci facci, così te lo guardi, così che magari non va bene anche l'altro. Ok, sì, ne approfitto, faccio in quadri di quindi faccio un saluto a tutti quanti, Tino, Gianni, dai, domani ti chiamo verso metà mattinata, che per la risposta di quella tua cosa lì. Mario, poi non so se c'è altra gente, se è Claudio in ascolto e tutti gli altri. Ok, io quindi chiudo e faccio i corretti, riprendi Gianni e i corretti per me. Scappala. Ciao, Salvatore, ben sentito, buon corretti. Allora mi porto il telefono appresso domani, così almeno quando chiami non c'è problema. Poi ti darò anche quello di casa, così quando mi devi chiamare per i pesci mi chiami a casa. Scusate, a proposito, sì, so che tra poco c'è un'altra, perché l'ha messa, per ridere a dirlo, l'ha clappata, vabbè, che ti fanno ridere queste cose, insomma, quindi tra poco ce ne sono altri. Gappa, se ne hai troppi, dammeli anche piccoli, intanto la sala fatta ce ne anche io, me li allevo io. Adesso glielo dico a mio figlio, sì, c'è un truppi, c'è del pieno, che sta scoppiando, ma però prima o poi una cosa che vanno male, ma poi si mangia uno con l'altro, un calzino so. Ok, dai, correti per me, ripeti già, mi fai girare per gli altri, salutare tutti quanti, correti definitivo per me, ci sentiamo la mattina. Una piccola parentesi, troppi pesci fanno venire le malattie nell'acquario, occhio. Vabbè, comunque, detto questo, avanti mai. Ciao Sabato, buon QRT, buon tutto, alle prossime. Niente, fatene crescere parecchie di questi pesci che tra un po' come lo devo fare anch'io l'acquario. Del mobile. Ma grandi, grandi, erano quelli grandi. Sì, perché se li prendi piccoli anche 7 euro li trovi. Devi sapere che gli scalari non si mettono mai con i neo, se li mangiano, e anche i gufi, perché vengono attirati dalle cose grandi dei colori, capito? Se li mangiano, bisogna sempre chiedere che tipi di pesce si abbinano, perché sono di diverse località. Vabbè, io andavo a prendere quel pesce lì in via del Trento, non so se c'è presente quel negozietto che c'è lì, ovvero questo qua lo facevo per venderli, dicevo per dire 4 di quelli, 5 di quelli, bla bla bla, mi facevo la bustina, poi lo mettevo assieme, dopo un paio di giorni volevo che si dimezzavano, e quindi insomma, sai, quando si è all'inizio non sai che pesce mettere, magari ne metti almeno minimo una coppia di persone all'altro e cerchi di colarti l'acquario, no? che poi per carità ogni giorno di giorno vede come a galla. Infatti mia moglie ha detto basta, non ne voglio più. Sì, io l'acquario ce l'ho una ventina d'anni, ma il mio è grandetto, è 125 litri, però non eccessivamente grande come quello di Mario, perché quello di Mario l'ho visto, e di quelli autocostruiti, il mio no, il mio è proprio fatto dalla casa, e ho avuto di tutto, ho avuto due tirania, ho avuto la murena, due murene, ho avuto i gamberi in mezzo, ho avuto la ragosta, le ragoste mi hanno fatto i figli. Sì, c'è un amico mio che ultimamente ha fatto un trasloco e era preoccupato per l'acquario, perché no, non voglio esagerare, però forse è 1,20 m, 1,30 m stato grande per forse 50 cm di larghezza, e alto altrettanto farà un 70 cm, 80 cm, comunque aveva, lo stesso anche lui, aveva due murene e poi aveva Sara che aveva, l'ho preso dal mare, perché lui è un appassionato di pesca anche, e quindi magari se riusciva a recuperare qualche pesce che si salvava, se lo metteva nell'acquario. Io parlo sempre di roba tropicale, però è ottimo, no, quello lì è salato, il mio era tropicale di acqua dolce, cioè con murene di acqua dolce, aragoste di acqua dolce, gamberi di acqua dolce, tutto di acqua dolce, però tropicali. Le murene sono uguali identiche a quelle di mare, identiche, tutte uguali. Stanno dentro la brocca, con la bocca sempre aperta, E quelle mi hanno fatto sparire un beneficio. Ecco, sì, l'ho visto. Vabbè, io lo so, lui che era il colofrano, perché non è tu, se no io non è che sono appassionato così di... Cioè io una volta che avevo preso, ho fatto una spesa, ho messo una ventina in qualità di pesci, però sono durati pochissimo, cioè magari sono durati 2 mesi e poi quando ne vedevi morire uno o due al giorno, insomma poi non ti veniva la voglia di andare, poi le pesce avevo messo anche come si chiama? Quel liquido per purificare l'acqua, insomma tante cose ho fatto, però non sono mai andati bene come dovevo andare bene. Completa esposizione. Sì, sì, perché ti chiedo delle approvazioni già, perché spendere soldi e così buttate, capito? Guarda, io mi sono durato un po' quando erano solo neon, ma proprio solo neon, e poi anche quelli sono andati a finire male, non so perché, guarda, non mi puoi aprire la testa, ma non posso dire. Vabbè, facciamo girare, Mario. Lasciatene anche un poco per me, che quando lo metto in moto me ne date un po' anche a me di pesciolini. Ma non altro? Senti, l'unica cosa mia, quando devi comprare mi ci piace, andiamo lunedì sera insieme, andiamo, li bigliemmo, e ti dico le qualità che devi mettere. Se tu vuoi mettere gli scalari, devi mettere una qualità di pesce. Allora, tu i pulitori li puoi sempre mettere, sia Corridoras, sia McMullis, tutti quelli lì. Puoi mettere, insomma, i pulitori non fanno niente a nessun pesce. E dico, i pulitori ci puoi mettere sia i neon che gli bistis, eccetera, eccetera. Non puoi mettere invece gli scalari e altri tipi di pesci. Comunque ti consiglio di non mettere tante qualità di pesci. Metti, per dire, di quelli rossi, due di quelli rossi, di quel pesce ventaglio. E poi puoi mettere, con quelli puoi mettere anche i neon e così. Due aragoste che mi hanno detto, ma come hai fatto a farle nascere? Ho avuto due aragoste, si è accorta mia figlia che aveva le uova attaccate una di queste. Allora cosa ho preso? L'ho pescata, ho preso la calapparto, le ho raschiato piano piano col dito sotto la pancia, le ho fatto scendere le uova perché se le mette sotto quella specie di cosa che ha pestito, di pala che c'ha. Le ho fatte scendere giù. E sono andati i figli della salapazza, che li mangi, e poi li ho andati a mangiare, mangimi sminuzzato fino fino e sono diventati grandi. Ma è chiaro, ma hanno continuato a crescere, oppure hanno un determinato periodo anche loro e poi dopo un po' muoiono, per dire. Cioè, quanto può durare una ragosta dalla nascita fino alla morte? Qua questo non te lo so dire, perché io l'ho avuta a 3 anni, ne ho avuto una coppia a 3 anni. E hanno fatto i figli siccome erano talmente tanti che ho chiesto se per cortesia me li tenevano oppure se li volevano in cambio di pesci. Abbiamo fatto 4-5 tutto il giorno, dice non ci abbiamo posto per metterle, questo e quell'altro. Fatto sta che uno poi alla fine mi ha dato in cambio dei pesci e i figli li ho dati, solo che qualcuno mi è caduto nell'acquario mentre li stavo togliendo e quindi si sono immoscati, vai a ciappari dentro le, perché io ho una parte a roccia, una parte a piante, poi ci sono le brocche, si sono immoscati, no? E fatto sta che 2 o 3 sono cresciuti nell'acquario e poi io cambiavano anche la, ogni anno cambiavano la corazza tutta intera, tu devi vedere che spettacolo, cioè la ragosta esce fuori e sembra che ci sia un'altra ragosta dentro. È una cosa spettacolare, intera, intera, poi voglio prendere la dispensa. Sì, l'ho vista già. L'ho vista, direi, a casa di questo amico mio. Mi ha fatto vedere la ragosta, dalla più piccola alla più grande. Ma detto, questa è sempre la stessa, mi ha detto, ma, no, questa è sempre la stessa, il mio non cambia. Si pulisce la buccia, dai, diciamo. Sì. E poi lui è riuscito a seccarle, no? A seccarle ce le ha nel, così, a bella vita, diciamo, nel mobile, in una frittaliera. Quando lo vuole far vedere, le fa vedere. Sì, sono belle. E vabbè, comunque io credo che ci voglia anche un determinato tempo anche per loro. Io mi ricordo, tanti anni fa sono andato a vedere un acquario di, e mi forse mai lo conosce, di Sagittario, il professor Sagittario, che lui a casa sua aveva, non so se c'era ancora, un bel acquario grande, aveva un casino di pesci proprio giù, guarda, troppo bello perché era molto colorato, c'erano un sacco di neon, un sacco di quei pesci rossi, però c'erano quei pesci rossi che poi, adesso il maschio non mi ricordo se era su un po' più scuro, poi c'erano i pesci neri, guarda, era spettacolare. Io l'acquario più grande che ho visto è quello che divideva un muro di un salone da un ambito. Tu immaginati, al posto del muro c'era l'acquario, pesci enormi. Guarda, io lo volevo, siccome so come si fa, no, a me e all'entrata è tutto libero, il salone dall'ambito, perché non si usa più, adesso va bene, già lo sai. Volevo fare una specie di muro con un passamano in marmo per appoggiarci l'acquario sopra, per dividere, no? Sempre mia moglie non me l'ha fatto fare perché ci voleva mettere un mobile lì e quindi buonanotte. Chiuso, sempre la camera lucida, le passava la cena, il salone, la camera degli ospiti, in effetti, come c'era il vestito della domenica. Anche io quello, dicevo perché a me. Meno male d'estate, me ne sono accorto. vedi, bisogna stare attenti anche a queste cose. Ma io l'ho comprato che era un 1200 watt, se non mi sbaglio, è un uomo abbastanza grande che addirittura usciva fuori dall'acqua, ti puoi immaginare. Perfetto. Allora, una volta che tu prendi l'acquario, lo riempi di acqua e cominci a metterci, praticamente prima di riempirlo d'acqua se ci devi mettere le piante vere, devi mettere uno strato, vendono nei zoomarket, diciamo così, vendono il concime per le piante, no? Tu fai uno strato di concime e poi ci metti sopra la sabbietta o la ghiaia, quella che vendono, insomma, quella ghiaietta che vendono adesso. Prima di metterla la devi sciacquare bene sotto il rubinetto, con una scolappata, qualche cosa, lo metti, la lavi, praticamente devi lavare la sabbia, togliere tutte le impurità che c'hai e poi metterla dentro l'acquario, anche se ti risulterà sempre un po' sporca. Quindi metti l'acqua, fai filtrare tutta la sabbia bene, di modo che, e prepari già l'acquario così, praticamente. Quando tu vedi l'acqua limpida, è pronta per piantare le piantine. Ecco, io invece facevo quella preparazione che mi hai detto tu, senza le piantine. Poi mano a mano prendevo le piantine, addirittura le lasciavo con, che effettivamente non è che era una cosa bella da vedere, con il suo vasettino, cercavo di metterle, di sopperrarle, dai. No, io il vasetto lo togliamo sempre, prendevo sia il vaso che il cortone, di modo che le radici si espandono e riescono a... quello lì è fatto in modo che non si espandano le radici e si espandono e si attaccano meglio al terreno, capito? Vabbè, comunque le piante non mi hanno mai dato fastidio, cioè non sono fatte delle piante che si afflosciavano o meno, no, le piante sono rimaste sempre belle, verdi, l'unica cosa è che dovevo fare il vasettino con delle pietre, poi mettendo dietro una doccia e così via. Ehi, va bene anche così. Io lo togliamo perché poi sai cosa succede. Quando la lametta chiama vento, esce fuori, esce e comincia a tapparti il filtro, a tapparti quello, invece tolto il vasetto, tolta la lana e piantate in mezzo alle radici. Li metti due pezzoni più pesanti sopra, dopo che le pianti via. Ecco, poi li metti qualche goccia di fertilizzante fogliare, questo serve per le piante, per cominciare a crescere, capito? L'acqua naturalmente ci vuole il biocondizionatore e a questo punto dopo 3 o 4 giorni che vedi che l'acqua è limpida, ci sono le piantine, c'è già tutto, è pronto a mettere i pesci. Per mettere i pesci devi portarlo a una temperatura prima di mettere i pesci di 27 gradi circa. Se metti neon con la roba lì, sui 27 gradi, 27, 28, dai. Niente, poi ci puoi mettere i pesci. I pesci quando tu li metti non li buttare direttamente mai, così con l'acqua che c'hai, eccetera, eccetera. Li devi mettere un po' a bagno con la stessa busta, in modo che si abituino a quella temperatura. Una volta che li lasciate sui 15 minuti, 20 minuti a bagno, li prendi le bustine e le versi in una vaschetta e acchiappi solo i pesci senza versare l'acqua che ti hanno dato, perché potrebbe avere delle malattie, capito? Io invece no. Io facevo quel discorso che mi hai appena detto, del fatto di abituarsi alla temperatura, a parte che la temperatura io la lasciavo sempre 24-25 gradi, poi li lasciavo 10-15 minuti così nella butta e poi lo buttavo l'acqua e tutto, e vedi, forse magari anche quello è stato un errore. Quello è un errore, perché se l'acqua già c'ha malattie, te lo porta anche nel tuo. Documentato prima, capito? E niente, tutta questa storia qui dovrebbe essere fatta ogni volta così. Poi i pesci quando vai a comprarli, occhio, specialmente se compri neo, controlla sempre bene la coda che non ha, e il corpo che non abbiano puntini bianchi, perché quelli sono malati. Sì, sì, ma quello i pesci meno male già andavo sempre con i colori più vivaci, e quindi li guardavo bene neo, anche se lui ci merita, io dovrei di pagare, li guardavo nella bustina, vedevo un po' se c'era quello da cambiare, ma lo facevo cambiare, oppure magari avevo qualche pellicola della penna di dietro, capito? È un bel colore, il colore. Si può sbiadire anche portandoli via, capito? Nel trasporto, perché sono molto sensibili i pesci. Poi si riprendono nell'acquario, quando sono dentro l'acquario si riprendono, si fanno l'habitat e si riprendono. E sono cose un po', bisogna documentarsi. Io ho avuto addirittura i discus, che sono i pesci, i veri pesci. Sai quanto costa? Ma se ti dico non si grida. Guarda, ma non lo posso immaginare, io ti sto dicendo che ho preso qui romboidali, allora li avevo pagati 25.000 lire l'uno, caspita, che quando ho visto che quando mi stavano mangiando tutte le cose dei pesci, ma le pare li ho ripresi, li ho riportati, e tasco, subito lo voglio, dammi adesso 50.000 lire di pesci, che poi proprio mi sono durati pochi, perché sai, essendo un po' ingenuo nel fattore, non sapevo cosa prendere, quindi mi ha fregato due volte, una volta. Allora io gli scusa, spendo 85.000 lire, 85.000 lire, conosciamo le lire, devo prendere quelli piccoli. Quando erano grandi valevano 450.000 lire l'uno, quelli che avevo, gli erano tutti colorati, ma tu devi vedere che razza di pesci. Ne avevo uno che era azzurro con le strisce gialle, ma e poi i grandi, i discus hanno la forma di un disco, sono grandi, capito, arrotondati tipo come possono essere gli scalari, ma ancora di più. E poi hanno la livrea tutta colorata, ma devi vedere che colori che avevano. E sono pesci difficilissimi da tenere, perché devi tenere l'acqua con un'acidità graduata, devi fare le analisi ogni tanto. Questa è una cosa, l'ho fatto solo una volta l'analisi, poi mi sono regolato nella civiltà, li mettevo il sale a posto di mettervi roba che mi dicevano loro, il sale in mezzo ai filtri, se non volete un libro, due cucchiai di sale vai. Ma ecco, vabbè, uno quando si aggiorna e legge dalle varie, magari cerca sempre la soluzione migliore per poter tenere. Io vabbè, ti ripeto, quando li ho presi li ho sbattuti dentro e il braccio dice vuoi campare in campo, capito? Non è che purtroppo così, quando magari non hai tempo, oppure ti dedichi, che ne so, 10 minuti a settimana per vedere, dargli. No, io ogni volta che gli davo un pochino a mangiare, per quello sì, ma me lo devo non esagerare anche sul fatto da mangiare, solo che quando rientravo dal lavoro, io dei cani, io sono appassionato di spagnol bretto, dei cani che mi sono fatto portare al continente, aveva ragione. Ma cosa c'è? Qualche corso d'acqua lì vicino? Qualche corso d'acqua? Vicino alla campagna tua? Ma sì, sì, c'è un corso d'acqua, però è proprio all'inizio della mia strada, diciamo. Cioè, per arrivare a casa mia dovrei fare forse un chilometro e mezzo, sono due da quel corso d'acqua. Quindi è tanto grandino là. Ho capito. E questi corsi d'acqua tirano visti i film. Quella sono le zanzare, non che la compagna, la le maniere. Beh, allora, per carità, guarda, non si riesce. Poi il brutto è che, guarda, un cane può prendere una malattia e vabbè, non la espone subito, la può esporre dopo 3-4 anni, ti accorgi che la esponiosi, cioè tu teoricamente lo dovresti fare. Ogni 6 mesi dovresti fare un prelievo di sangue per verificare se il cane è infetto o meno. Ma, cioè, come dovrei fare io? Dovrò fare tutto vicinato. Se poi il cane infetto ti accorgi che è in tempo da recuperare, allora devi fare il trattamento. Io mi ricordo, avevo un cocker che anche lui era spettacolare, era bellissimo, figlio di quella che avevo in casa, perché ne avevo due cocker, la madre e il figlio. Il figlio l'ho curato, anche perché facevo una puntura la mattina alle 6 del mattino e la sera alle 6 quando uscivo dal lavoro, no? Devo farne due al giorno e sono riuscito a farlo andare avanti ancora per 2 anni, poi però la malattia ormai ci aveva incorporata, non ho potuto, poi l'avevo preso in tempo. Ma non ce la fai, sono malattia, io ho visto il cane di un amico mio, lo stesso da caccia, come lui era da caccia grossa, Gigi, lo si chiamava Gigi, era un cane che mancava solo la parola. Lo usavano per caccia cinghiale ed era un po' enter, mi pare che fosse, sì. Praticamente questo qui doveva entrare a maniure e gli uscivano le unghie delle dita, delle zampe fuori in una maniera sproporzionata e piene di sangue sempre, poveraccio, guarda. Sì, già, cioè ancora qui era rimediabile perché gli facevano le unghie, però sai, il padrone doveva prendere e tagliare, però gliele taglio, gli dopo 3 giorni gliele tagliare, capito? È una cosa impressionante. Ma poi invece niente, colpiti con la perdita del pelo, con il fatto che nella cute si riempiono di microbe, malevari, lui ha sempre fruito, capito? Queste cose qua. E quindi ho fatto noi litti questi cani, tutti quanti di malattia muoiono. Ma guarda, io spero che a me è morta una un po' di mesi fa, sarà 8-9 mesi fa, spero che, perché qui la malattia va in estate soprattutto, capito, quando è il periodo delle zanzare. Adesso sto cercando, che mi hanno consigliato, con questi anni mi hanno consigliato di fare un canile, che per dire un po' riservato, nel senso che vicino alla casetta dove dormo loro, adesso proprio devo spostare le canile, dove dormo loro di mettere per dire quelle piante che danno fastidio al insetto, l'acqua cambiarla ogni giorno, possibilmente fargli l'entrata nella casetta con una specie di porticina in plexiglass, di quello morbido, in maniera tale che entra lui, però gli animali non c'entrano, vedi, tante cose. Poi di lasciare un po' di terreno, perché intanto io, guarda, già ne sto facendo di tutti i colori. Ora mi sono un pochino rassegnato, perché diciamo la verità, si comportano poche spese, sia per il fatto materiale che per quello a loro, quindi allora io ho visto c'è mio compare per dire, non ho mai fatto vaccini, non ho mai fatto niente, questi cani sono forti come il ferro, non si prendono una malattia, sono mezzo abbandonati, sono molto bravo, e io che li do da mangiare ogni giorno, li pulisco ogni giorno, li cambio l'acqua ogni giorno, li pulisco ogni giorno, ci amavano sempre, quindi diciamo non è che mi sto fregando, però già, fammi vedere quanto costa lui, gli zingari, quanti facce si fanno quando cresco, quando nasco? Se fosse finito, se si viene a parlare di, sono sporchino, è come, ma, come maiali, no? E poi le malattie non li prendono. È stata una volta che questa cliente mi ha chiesto se riportavo su una cosa a casa sua che era pesante, non ce la faceva, non ne gusti, e l'ho portata io, no? E quando sono arrivato la figlia ha rifatta, mamma, mamma, sono nati, cosa è nato, ci ha proprio visto in diretta, erano nati persiani, i gattini persiani di questa signora. Io guardate, che belli, che belli, c'era il marito, tutti quanti, io gli ho detto che belli, ma uno non me lo regala, gli ho detto, e lui mi ha detto, no, questi li prendiamo, e il marito ha detto, ci vuole già, dico già, io ve l'ho scelto, poi mi sono dimenticato, un giorno è giunta, mi ha detto, mica che da cosa è pronto, sai cosa, e da tutti lo dico, alle tre vieni a casa che ti lo dopo. Sono andato a ridere, non compito mai quella via, se andato a ridere a casa mia e me la dà. Ma era una cosa bella, io l'ho preso, io ho assistito al fatto di prima del mio cocker, della finuncia che era a casa, diciamo che era come una persona, io lo cangia, cioè trattato come una persona, poi a casa di mamma, figuriamoci, guarda, sono presente che non ci sta dentro, quel cane aveva il suo divano, la sua copertina, il suo cuscino, e tante altre cose. E poi ho assistito invece a questo fatto dello spagnoletto che anche lui mi avevo comprato, allora avevo pagato la cuccia, avevo pagato 200 euro qua ai bancari e l'ho fatto soltare con quello che ho fatto, portato da Continente. E sono usciti dei cuccioli spettacolari, guarda, troppo belli, infatti quelli ho detto no, guarda, qualsiasi me lo chieda, non è bello, no, così che li vorresti tenere tutti. Io sono un animalista, a me piacerebbe avere, il mio sogno sarebbe avere una casa in campagna, ma non tanto perché adoro la campagna, perché adoro gli animali, è quello che mi piace la pace, non mi piace anche per il baracchino, per questi fatti qua, che la gente ti bussi la porta perché sta disturbando, perché fa rumore, mi piacerebbe avere una casa indipendente, capito? Dove posso metterci le mie galline, i miei maiali, i miei cani perché li adoro, capito? Beh, io lo so già, io purtroppo di quegli animali lì, sì, forse mi metterò, ancora non ho deciso, però sono in trattative così, perché io, il mio cugino bancario che lui è appassionatissimo di conigli, per avere conigli non sono problemi. Ci vuole tempo, cacchio, perché devi fare il topo, devi riservare un pochino, non devo prendere freddo, invece la gallina la lì, si era in carrera, se vuole la campa, perché hanno fatto bravo, le galline campano, anche se con qualcosa che la desiderava mangiare. Ma per dire, come tiene i conigli, mio cugino, guarda, è una cosa impressionante. E poi vabbè, quando ne ha truppe anche lui, di macella e li prende così la gente che conosce, ma giusto, neanche a questo di corso, guarda, perché io l'ho preso, ne ho preso uno, mi ha dato 2 chili e mezzo, e mi sono pagato 10 euro, ti puoi immaginare. Oddio. Io avevo un amico senza lavoro, il padre gli ha detto, anche ci abbiamo una campagna, che è grande, 7 ettari di terreno, ci abbiamo il capannone dove mettiamo i trattori, organizzati, dice, fidati un po' di conigli, ti fa l'allevamento, gli ha fatto vedere come fare. Questo amico mi diceva, se voleva ci stava anche la settimana senza scendere, ci aveva le mangiatoie che davano da mangiare da soli, l'acqua che scendeva da solo, le fattrici da una parte. I conigli, quelli stalloni che si rimontano e via via dall'altra. E mi ha detto, adesso ti faccio vedere una cosa, come lo metteva il coniglio maschio nella gabbia, via, subito a saltare, poi andava da, lo metteva nell'altra, e si saltava anche l'altra, poi lo metteva a posto. Dopo un po' di tempo nascevano i conigli. Sì, te lo dico anche io. Che questo amico mio quanto era bravo, il primo coniglio che doveva macellare, non aveva il coraggio, si è messo un disegno di ladrone. Vabbè, già, ma sai cos'è? Cioè, se te lo facciamo perché vogliamo l'animale è un conto, ma se ci stai lavorando a un certo punto, insomma, io guarda, a me da poco, ne ho da poco, questo sono già, ne ho fatto da agosto, io ho avuto i libri, proprio, guarda, mettendo nel palmo della mano ci siamo tutti e due, perché erano talmente piccoli che le dovute crescere con latte, no? Con biberone e tutto quanto. Quando erano già belle cresciute, il mio cane è riuscito, perché ecco lì un cane, boh, è riuscito a scavare sotto, non fa tutto che avevo messo dei pannelli, la gabbia l'avevo bella chiusa, è riuscito a scavare sotto, è riuscito a entrare sotto la gabbia, ha preso la gambettina della lepre e praticamente una l'ha praticamente scoiattata, infatti è morta, e l'altra invece sono riuscita a salvarla, che tra l'altro non lo so il cane, li stavo chiamando, non veniva, e se non reso la lepre, sono andato via e uno l'ha ammazzata. Vabbè, buona della favola, questo qua ce l'ho tuttora, che io questa lepre qua, a parte devo andare su io a dargli da mangiare perché è diffidentissima, nonostante tutto io entro il braccio dentro la gabbia, gli do il bicchiere del latte, tu lo vedi bevendo il latte, è stata una cosa, guarda, mi piace quando sono questi animali, ti dirò la verità che pur essendo un cacciatore, oggi come oggi se mi dicono ammazza quella lepre per mangiarla, io non me la mangerei mai perché sai, l'hai cresciuta, l'hai vista figurata o quanto, però se vado a caccia e ne sono lepre, logico che beh certo, qua è stata trovata sicuramente in tana, nella figliolettina. No, no, mio cugnato stava pulendo, siccome il giardiniere, stava pulendo delle vite lì a Bagaglino, e quando il lupo ha visto qualche cosa così camminare che non piace, è tornato e ne aveva preso una. Ma adesso quando c'è un'altra, c'era un'altra, infatti erano fratello e sorella, era maschio e femmina. Poi dopo un paio di mesi, dopo 2 o 3 mesi, me ne è nato un altro che però era un pochino più grandicello, quello l'ho fatto crescere per 2 settimane, poi adesso non ha più mangiato, è morto così, da solo, io ho preso la gabbia per dargli da mangiare, l'ho visto morto, e allora così è nato da solo. Sì, ho lì tutto pieno, una volta l'ho sentito. Vedo di giorno, cazzo, vedo questa lepre, cazzo, mamma mia, a Gesù di strano, è una lepre di giorno, di solito riescono di notte, no? E stavo camminando al bordo della strada, mi fermo con il camion, vado da dietro, piano piano, era bisogno di ballarecci. E questi occhi si sono fermati, hanno detto, tanto bella, adesso, bella, bella, io c'avevo uno scatolone in camion, poi ce la metto dentro. Poi la guardo bene, c'aveva gli occhi rossi, rossi, rossi, rossi. Non ho la tira, quando così butta c'ha. E non mi è morto dentro la scatola. E ha detto che è strano, farsi prendere così velocemente, boh, e di solito il furba l'ha letto. E gli sono andato da dietro e poi mi sono tuffato, però sicuramente era malato. Sì, già, sì. Io lì via Paladino sono lavorato per 5 anni di seguito, e noi abbiamo iniziato lì a fare tutti gli scavi, a portare l'acqua e balle varie, acqua, fonda e così via. Guarda, all'ordine del giorno io vedevo pernici e lippi, pernici e lippi, non c'era altro che, infatti ho detto, guarda, a questo posto se non c'è qualcun altro che sono sputtana, perché sai, lì io non sono andato, ma a cacciare non sono mai andato, perché andava il mio collega col principale, e siccome già vederlo ogni giorno lì, vederlo anche a domenica non è che mi interessava, no? Quindi spazio un po' da... però guarda, era una zona bellissima, solo che poi sono entrati delle persone, l'amico che invita l'amico, l'amico dell'amico che invita gli amici, bla bla bla bla, hanno sputato il posto e ce n'è tuttora, però non è più come una volta, ci sono troppe case anche, c'è molta forestale. E una signora una volta mi ha detto, ma lui non è che conosce qualche cacciatore, ma qualche cosa? Perché c'è un cinghiale che viene tutte le notti, mi ha fatto dei fusi, mi ha rovinato tutto il portale inglese della villa. E lui dice, io ne conosco cacciatori, no? Che si mettono a postare il cinghiale su, non lo so. Sì, diciamo che lo fa, perché lui lo fa. Io sono andato con uno, ma sono andato giusto così a fare compagnia, senza arma, anche perché è sempre un rischio, sai. Quando fai queste cose qua non è bellissimo, a me il cinghiale piace quando te lo batti e te lo spari, quando lo puoi sparare. Certo che se l'hanno già fatto, però con un'autorizzazione, c'era un'autorizzazione perché c'era questo cinghiale che faceva un casino di danno, poi era un bestione e quindi hanno fatto una squadra di notte, una portamento di notte e l'hanno preso. Però hanno dovuto fare un'autorizzazione particolare perché lì è drammatico, capito? Se non fai un'autorizzazione lì c'è l'arresto, non è che poi se ti prendono che tu hai poco d'arma, scorro, se vuoi essere di pronto l'hanno più. Non so, ma purtroppo anche questa qua dice che mi ha rovinato tutto il portale inglese della villa, capito? E le spostine non so cosa dire, ne conosco tanti, ma che fanno anche caccia cinghiale, perché ho anche questo amico, però non so se sono dei puliti. Comunque puliti lì perché io ce ne sono affiuti, perché di notte io viaggiavo lì, un periodo andavo a ballare al Sirocchini, quando tornavo di notte guai, ho di macchina appresso quando tornavo da pescare. Io quella zona lì la conosco benissimo perché a me piace sentire, vabbè io ci ho frequentato un sacco di anni, quindi ho un sacco di amici, alcuni li ho persi perché hanno scelto altre strade, però andavo molto spesso a pescare anche, quindi lì nella zona di Tonnara, nella zona del porto, passavo la notte lì, no? Proprio trovavo di lì in strada. Sì, grazie. Io mi ricordo un amico mio, una volta è venuto a Sacrocolle, mi ha detto, già una cortesia. E cosa c'è? Tanto ce l'avete una corda, che mi pago la benzina, mi serve una cortesia andare a Stintino, che mi sono spantanato con la macchina seguendo una leprega. Mi dice, mentre farà da non cose, non riesco a toglierla. E mi ha detto, vabbè, proviamo. E dice la macchina non è nemmeno nella mia né quella di mio padre, che mio padre gli hanno dato da una concessionaria perché ha lasciato la sua macchina a gestare. E lui gliel'aveva fregata, capito? E gli ho detto, ciao Mauro, che ne siamo arrivati, ma che se bisogna in giro, tu gli hai imboscato la bici da due, no? Dietro di lei fa lui. C'è per me lo è me, già. No, io invece ne ho saputo una più curiosa, che sembra una barzelletta, però cominciano a pescare tutto quanto, no? Finiscono la pescata, vanno la macchina già, e lì che gli hanno trovato il parabrezza davanti sopra la cappotta, sopra le cose davanti, il cofano davanti, i sedili tutti squarciati, e poi che cacchio, mi hanno fatto questo sfregio, infatti chissà chi è questo coglione, chissà chi è, e chi era secondo te? Il cinghiale che era vivo. Allora, ha con il cofano dietro per metterci le canne e non c'era più cinghiale. Pensavano che fosse morto, noi c'era ancora avviso. Vabbè, ma dico io, caspita, tu mi invito, magari è venuto, pungilo, caspita, fai qualche cosa, ma è affare che mica cinghiale il muro ci vuole a morire, però una volta che lo pungi, il suo uscire del sangue siete tranquilli almeno, va. Questo quello ha preso il colpo, questo è svenuto, il fumo è cominciato a ribellarsi. Qua tu pensa se sarebbe successo mentre lui stava guidando, cosa sarebbe successo? Sapete che già il colpo che gli ha dato quando l'ha vestito gli deve aver marrato la macchina da avanti. Non ti credo, perché mio zio questo l'aveva preso uno, vabbè che era col Mercedes, cioè, ma non ne aveva la macchina, ma invece che l'ha preso. Disintegrata la macchina, però era di quelli grossi, pesava oltre il quintale, e gli hanno preso anche il cinghiale, la frenatura. Eh sì, ma a me è successo, io viaggiavo, facevo strada di Palau, un giorno sì, un giorno no, lì nella strada per andare a Palau, guarda, non dico sempre, ma quasi sempre vedevamo o il cinghiale o lì, intanto che qualche notte abbiamo fatto anche una bella cena, a base di libri, perché siccome una vicina non bastava, lo mettevamo in freezer e quello facevamo quando avevamo 3-4, mi è successo che in curva non l'ho preso perché ho ottenuto anche perché la macchina non era mia, poi era un Opel Kadett 1000 e il programma ha detto che coglione il cazzo ti devo ritirare, e ho detto ma scusate, io già la macchina non era mia, ti facevo danno, toccava pagartela e per giunta rimaneva a piedi, quindi non ho voluto rischiare. È uscita questa scroppa abbastanza grande e guarda, sono riuscito a contarne 5 di cinghialetti striati, però se prendevo la madre lì catturavi tutto. Ma la madre era grossa, se non c'è una volta sulla Buddy Woody, poi ci ho pensato, toccasse le crescenze. Stavo scendendo a pescare alle 2 di mattina, stavo proprio andando, volevo fare la notte e poi non ce l'ho fatta, mi sono grumito la verità. E allora sono andato alle 2 di mattina, stavo scendendo, arrivati dopo Villafiorita lì, vedo questi due conigli, tutti e due abbordonati, uno grande e uno un po' più piccolo, li butto di fari e rimangono bloccati. Scendo dalla macchina piano piano, prendo la culetta era bassa, quindi ho detto che mi tuffo in bici, mi tuffo sopra uno ragazzo e l'ho preso, mi è andato sotto al braccio e mi sono fuggito bastardo e mi sono fatto anche male, sono andato a pescare tutto tanto scoriato. No, a me mi è successo un'altra cosa invece, però io non adotto la tua tattica, io ci passo avanti con la macchina, se lo prendo, se lo sento, torno indietro. E una volta questo guardaretto è caspita, eravamo a Bulti, noi frequentiamo molto con la zona lì, no? Conosciamo molto bene il pastore di quella zona lì, e allora eravamo a casa cinghiale, vabbè, sai, poi abbiamo volta si sbatte e muore. Sì, lo so, sappiamo quelle cose, abbiamo già fatte. Diciamo che non siamo riusciti, infatti lui c'è proprio la testa sotto, però non siamo riusciti proprio a trovarlo, non poi è peccato. Allora il giorno capita che abbiamo preso anche un brutto di cinghiale, noi avevamo una compagnia che erano in 12 persone al massimo, quindi non era neanche tanto grande la compagnia. Però era il giorno che abbiamo preso 6 cinghiali, quindi tutti gli ma avevo preso tre degli grandi, gli altri erano mille, diciamo. Una volta, siccome io sai che era la protezione civile, no? Ci hanno avvisato che dovevano fare una simulazione e che ci potevano chiamare qualsiasi giorno, a qualsiasi ora, e dovevamo tenerci pronti. Vabbè, un sabato notte, fatto con proposito sicuramente, la sabato notte a mezzanotte e mezzo mi spiega il telefono e il nostro capogruppo deciso dice Gianni, muoviti subito, mettetevi la divisa che stanno passando a prenderti d'urgenza, che ci hanno chiamato dalla prefettura andare a Portoferro che ci sono dei naufraghi, prendiamo e partiamo, sirene spiegate. Io con la Jeep, con la Rover, con il faro sopra, tutto quanto, gli altri con le ambulanze, via, siamo partiti. E siamo partiti da Sassari, da Sorso, poi c'era Sennori, Porto Torres, insomma 5-6 gruppi, tutti quanti attrezzati, siamo partiti. E io sono entrato dalla finestra con Land Rover, col faro acceso, tu dovevi i cinghiali scappare. Cazzo, quando sto accendendo ho cominciato a pissigli, li metto il 4x4, col faro acceso, e loro correndo. Ma ne ho visto piccoli e grossi anche. Già, io sì, ho sentito molta gente che poi, vabbè, molta gente fa un bravaggio lì, non è che. Ma a me mi è capitato, e non sono balle, cazzo, io. Un volo di vernice, un volo di vernice. quindi non credo che ho fatto una grossa, un grosso carriere. Comunque sia, a me piace andare a segnare al massimo, proprio esagerando, quelle 3-4 volte, non di più, durante l'arco della vettura. È pesante la caccia a cinghiale, bisogna camminare. No, noi facciamo, adesso stiamo partendo la zona di Santa Maria Colina, che ci sono dei miei cugini, una bella compagnia, cinghiali ce ne sono parecchi. Infatti l'anno scorso mi è giunta l'occasione di prendere uno abbastanza grande. No, il fatto è che, sai cos'è già, se tu ti prendi il procurato e vai solo esclusivamente a caccia cinghiale, il cane ti fa uscire 4 domeniche e basta. E io, ti ripeto, ho speso un po' di soldi per il cane, per far uscire 4 giorni all'anno non mi va bene. Quindi evito di fare quella cacciata lì. Ma poi è più divertente andare all'Ippico. Ma ascolta, dimmi una cosa, ma quel passo che c'è Cavospris, io a volte mi incanto, nuvoloni di storni, ma sono il bilaghi. Perché sono protetti. Sono protetti perché perché rotta quella legge lì, perché uno è tentato, e ti posso dire la verità, che a me sono passati sopra e poi fuggiati le ho fatte, ne abbiamo raccontato 200, caspita, solo che poi le regali, perché tanto cosa ne fai? Io sinceramente non ne mangio di quelli, il torto magari sì, però i tornelli sono già un pochino più, diciamo, più duretti e non mi piacciono. L'anno scorso addirittura eravamo anche senza procurarlo, ma io, però l'ha provato il mio collega il fucile, e lì in azienda dove lavoriamo noi c'era sempre questo volo enorme, guarda già, quando ci appoggiavano in terra facevamo una strada nera, e piano piano ci siamo abbassati, piano piano mi è tirato prima la fucilata in terra, poi quando ci abbiamo abbassato ne avevamo altri due, e c'erano dei colleghi nostri che ci hanno aiutato a raccogliere, perché molti ce ne sono anche feriti, magari non te ne accorgi, li prendi all'ala, quindi si nascondono. Siamo riusciti a raccoglierne più di 100. Grazie, dopo, se vi girate, le Rosical, sarà la del pallini da destigliare. Se voglio regalarti a un fattore che ce l'ho io, vai a dire, no, non ce ne vediamo, ma che te lo sei fatto, no, ma niente. E vabbè, è così sì, solo che quest'anno ne ho rinnovato, quindi non ho presente mai, tu non ti hai perso niente, perché quest'anno non c'erano né tordi, né colombacci, né beccacci, né pernici, quindi io mi domando e dico, cacchio, questa gente sta aumentando, non ho rinnovato perché prima pagavo, per la regione pagavo 5 euro e poi ho aumentato a 105 euro, e già 100 euro ce l'hanno aumentato, poi ci hanno dato 2 domeniche o 3 domeniche in meno, cioè questo arrivando al punto di regalarmi i soldi, no, allora come ho deciso io, ha deciso anche altra gente che non ha fatto rinnovo, però c'è stata anche molta gente che ha detto, vabbè, me lo me frega, non si sente lui, anzi meglio, c'è più poca gente sul piazzale, quindi ci divertiamo di più, capito? Mi ricordo prima che c'era anche una mezza rissa per le postazioni, avevo un amico che faceva la postazione lì a Scala di Giocca, proprio in punta, e si facevano il fuoco dalla notte per stare per il domani mattina, tutta la notte era un freddo, ma tinnandi, e poi magari arrivava l'altro col fucile, uno gli ha puntato il fucile, una volta ha detto, tu sei la portata dove è mia, dove sei il re, niente, mi viene giubilata sempre in lui, e a me dicevano, io gli ha detto, ma io ti parlo, non so dove vuoi, stavano per attaccarsi. Diciamo che c'è quella gente stravagante, perché io mi ricordo 2 anni fa, allora ho passato una notte fuori, ma c'era tanto, ho passato una notte fuori e lì a Sivigliu, e questo amico mi ha detto, dai, tu vai, prendi le coppe e poi quando vengo io, dimmi se mi dai quella che hai preso. E tu, se tu vieni, vieni con me, se no io mi prendo la mia e poi se ce ne ti arrangi, l'ho detto. Io sono andato, l'appuntamento era alle 5, perché tu alle 5 eri già stato occupato. E sono andato alle 3 e mezza io, no? E addirittura era già occupato, però ho incontrato degli amici e mi sono avvicinato, ho detto, ah, tu ci sei, vieni, vedi che fianco a me, mi ha detto. E la distanza non c'era, però mi ha detto, sì, rimani qua perché io, per dire, avevo come devo andare, così ti prenderai apposta. E quindi io già, già a posto, perché le cose migliori le avevano prese loro, poi erano per posto, figurati, non so se riconosci quelli di Bella. E gli hanno sentito nominare. Praticamente quelli erano, insomma, ho conosciuto un consiglio di battaglia, quindi tra una cosa e l'altra mi ha tenuto lì vicino a sé, no? Prende, sento la voce di questo amico mio, mi chiama, dove sei, chi, dove sei, dove sei? Io sono qua, tu dove sei? Io ho un amico che quando andiamo a pescare non è mai puntuale, mi dico alle 4 sotto casa, 4, 4 e 10, 4 e un quarto, già le buone motte e pace. Ah, noi lo stesso, io e mio compagno siamo così, quando andiamo con un'altra persona, se noi diamo l'appuntamento alle 5, io a parte che arrivo alle 5 o 10, no, proprio per essere un pochino puntuale, che poi magari è capitato prima una volta, che mi ha scusato il telefono, ma sempre con un compagno, ma tanto che ne so, cazzo, quando mi sono la sveglia, ma non può capitare, invece questo qua proprio ci aveva il vizio, alle 5:05 lui è morto, lui e partiamo da lui, se è già ci cercava. Questo Luciano mi telefonava verso le 7, 7 e mezza, alle 8. Ah già, scusa, mi aveva fatto un giorno. Vabbè, io sto pescando, invece si è preso questo posto, sì sì, e beh, no, non ha detto di aggiunto, no, cosa l'ha fatto la buffuna a Durati, prendo un'orata, ma bella, l'ha messa sotto due chili. L'ho attaccata, l'ho messa dentro una rete, e l'ho attaccata con una lenza grossa al muro, al molo castagno lì. Attaccato al muro c'era un chiodo grosso e non c'avevo spago, quindi ho preso la lenza grossa. Lui quando è arrivato, ma se è già niente, e io gli dico, cioè, niente, lui non mi sta attaccando il filaccione, ho fatto finta che avevo messo il filaccione in acqua. Cazzo, non c'è questa pesata, che deve dare una mano, piglia la lampada a giacca in terra, fidati, cazzo, ma tu benissimo, non so cosa avevo, non è. Da lui, alza, vera, la mette con la mano viva ancora. Tu sei bastardo dentro e fuori, ma... lui è bello, ma cosa si fa? Ma cosa facciamo di dove? Dei punti, No, non vedi dei punti. Abita in Viale Dante. Ah, no, credevo che era uno che conosco io che è cacciatore, però ha una passione della pesca. Poi è molto, un tipo molto scherzoso anche lui, d'accordo, l'ho chiesto. Beh, già, che l'abbiamo fatto? Caspita, l'una e mezza, no, mezz'ora e mezza. Anche lui gli abbiamo fatto una bella chiacchierata, allora, adesso vado di qui con solo la mattina, non mi devo neanche alzarmi anche alle 10, anche se sono ancora riposo. Ma ci sentiamo domani, state bene, tante cose belle, niente, salutoni anche del Vittorio Sultoni. Ciao Mario, se ci rivedo. Ok, ciao, sì, buonanotte, a domani. Ciao anche a tutti gli eventuali su WL che non ascolto. Non sei, adesso di buco. Ciao ciao!